GR24, il sole 24 ore. Sanità da Napolitano ok ai tagli, ma il servizio pubblico va difeso. PDL Fini ad Alfano, con lui una pagina nuova, scontro tra il segretario e Berlusconi. Al processo Ruby depongono due olgettine. Da Silvio riceviamo ancora 2.500 euro al mese. Obama ringrazia i volontari e si commuove. Sono orgoglioso di voi. Buona giornata da Valentina Furlaneto e dalla redazione. I tagli alla spesa sono necessari, ma il Servizio Sanitario Nazionale è una conquista che va difesa. Credo sia compatibile la salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale anche in prospettiva di una maggiore selezione e riduzione della spesa pubblica, a patto che ci sia la ricerca di soluzioni razionalizzatrici ed innovative, così ha detto il Presidente della Repubblica. E ora le primarie PDL, resta alta la tensione all'interno del partito ed è scontro Alfano-Berlusconi. In diretta Andrea Viali, buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Dunque, si faranno queste primarie del Popolo delle Libertà, a prezzo però di uno scontro senza precedenti fra Berlusconi ed Alfano, una vera e propria resa dei conti, quella avvenuta ieri a Palazzo Grazioli in una riunione dai toni molto accesi. Il Cavaliere ha scosso il PDL provando a mettere in discussione proprio le primarie, sostenendo che non sono salvifiche e che ci sarebbe bisogno piuttosto di un Berlusconi del 94, magari di un volto nuovo per risollevare il partito. Alfano però, che si era molto speso per le primarie, ha reagito, ha puntato i piedi e alla fine è passata alla sua linea, quindi è arrivato il via libera appunto alle primarie. Stamattina tra l'altro il segretario del PDL è anche tornato a parlare di questo acceso confronto che c'è stato con Berlusconi. Tra di noi c'è lealtà, rispetto e affetto e come nelle discussioni in famiglia possiamo permetterci di ragionare e di cercare insieme le soluzioni migliori, ha detto, per calmare le acque Alfano, al cui fianco oggi si schiera Gianfranco Fini. Con lui, dice Fini, è possibile una nuova pagina, una nuova stagione per i moderati, ma solo a patto che Alfano dica con chiarezza se sostiene o meno l'agenda Monti, afferma il Presidente della Camera, che invita anche Alfano ad allontanarsi dalla demagogia estremista e populista di tanti esponenti del suo partito e della Lega. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. E ora il punto con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Ora che mostra di voler andare avanti con le sue gambe per liberarsi dell'ombra minacciosa di Berlusconi, e non è poco, Angelino Alfano si inoltra in un terreno scivoloso. L'abbraccio di Gianfranco Fini, ad esempio, che lo invita a liberarsi degli estremisti, ossia dei berlusconiani, lo testimonia. La verità è che il centro è già molto affollato, c'è Casini, lo stesso Fini, vari segmenti del mondo cattolico. Per giocarvi una partita vincente Alfano dovrà dimostrare molta personalità, altrimenti rischia di finire in un mare di piccoli e grandi litigi in un'area già presidiata da altri concorrenti. Insomma, liberarsi dell'ombra di Berlusconi non è uno scherzo e riuscire a ricostruire un rapporto con l'opinione pubblica moderata oggi alla vigilia delle elezioni politiche è ancora più difficile. Il PDL deberlusconizzato è appena l'inizio della sua traversata del deserto. Il segretario del PD Pierluigi Bersani chiede che le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio siano scisse da quelle politiche nazionali. In diretta Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, un intervento a tutto campo, quello del segretario del PD questa mattina a Radio Anch'io. Bersani chiede che ci siano elezioni regionali scisse da quelle politiche perché, spiega, bisogna andare al voto senza dover aspettare mesi e mesi. Poi attacca l'idea di una democrazia governata dai tabernacoli con chiaro riferimento a Grillo e lancia nuovamente la sfida sulle primarie. Se vanno bene non ci ammazza più nessuno. Botta risposta poi con Matteo Renzi, che lo accusa di non essere stato un innovatore perché a suo dire in questi anni ha fatto il garante tra gruppi dirigenti del partito. Si sbaglia, ribatte a stretto giro il leader dei democratici, sentiamo la sua voce. Si sbaglia, se intanto che fa un giro per l'Italia si guarda attorno, il rinnovamento c'è, è stato profondo e adesso ci mette in condizione di avere una nuova classe dirigente adesso a cui far fare uno scalino in più per funzioni sia di partito sia di governo. A due settimane dal voto delle primarie, intanto i cinque candidati, Bersani, Renzi, Vendola, gli outsider Puppato e Tabacci, si concentrano sul programma, squadra di governo e future alleanze. Ci saranno una lenzuolata sulla moralità pubblica, una legge sulla cittadinanza per i figli di immigrati e il sostegno al lavoro tra i primi provvedimenti di Bersani. Il lavoro sarà tema centrale anche per Matteo Renzi, il quale però critica la politica della sinistra tesa a difendere più il posto che i lavoratori. Mini squadra di governo infine per il sindaco di Firenze, 10 ministri, 5 uomini, 5 donne, mentre Bersani apre la possibilità di far entrare qualche ministro del governo Monti. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Abbiamo le idee, la forza e il consenso per vincere in Lombardia con il modello Verona che affianca liste civiche a quelle della Lega, lo ha detto Roberto Maroni. Intanto l'ex sindaco Gabriele Albertini ha confermato la sua candidatura nel segno del Partito Popolare Europeo e per questo, spiega, non parteciperà alle primarie. Sentiamolo allora al microfono di Katia Caramelli. Non posso stare nelle primarie, non per mia scelta, ma per necessità di chi mi ha candidato. I punti principali del suo programma? Sono tre. Dal punto di vista istituzionale, la costituzione della macro-regione del nord per competere con altri territori europei tipo il Baden-Württemberg con delle caratteristiche simili. Dal punto di vista della gestione, grande investimento in imprenditorialità, liberalizzazioni, efficienza. Faccio un esempio per tutte. La vicenda della Maugeri e della San Raffaele, due fondazioni, avrebbero probabilmente avuto uno sbocco diverso se fossero state società per azioni con bilanci certificati. In questo caso anche si possono falsificare i bilanci, ma si devono commettere dei reati. Nel caso delle fondazioni i bilanci sono opachi e hanno consentito forse degli illeciti. E poi se il nome della lista sarà, come credo, onestà, forse al governo piuttosto che al potere, tutto quello che sarà controllo di gestione, scelta delle persone, codice etico applicato a tutti i livelli dell'istituzione, sia politica che della tecnostruttura, sarà un elemento essenziale nel nostro mandato. Intanto sul fronte del centro-sinistra, Umberto Ambrosoli, che lo scorso ottobre aveva rinunciato alla corsa al Pirellone, è tornato sulla sua decisione dopo i molteplici appelli a non tirarsi indietro. Il ministro dell'Ambiente potrebbe presentare un ricorso contro la Procura di Taranto in caso di mancata applicazione dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale per l'ILVA. Lo ha detto il ministro Clini, precisando che se non viene applicata, a mio giudizio, ha detto, si opera contro la legge e siccome la legge va rispettata ci muoveremo di conseguenza. 4 ore di confronto serrato, ma l'accordo sulla produttività non è stato raggiunto. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, spiega di non essere disposto a stravolgere il senso della posizione delle aziende, ma esprime ottimismo e annuncia che le imprese prepareranno un nuovo testo che presenteranno ai sindacati. Ci sembra che non ci sia stata nessuna accoglienza alle modifiche al testo che abbiamo proposto. Siamo molto lontani, ha detto la leader della CGIL, Susanna Camusso. La produzione industriale a settembre torna in calo, scendendo su base mensile dell'1,4%. Sull'anno si registra il 13° calo consecutivo, -4,8%. Lo rileva l'Istat, il tendenziale grezzo scende del 10,5%. E la produzione industriale per gli autoveicoli a settembre scende del 13% su base annua, mentre guardando ai primi 9 mesi del 2012 il ribasso tendenziale risulta pari al 19,3. Lo rileva sempre l'Istat, considerando i dati corretti per gli effetti di calendario. Prendendo invece a riferimento gli indici grezzi, la flessione del 21,2% a settembre e del 19,7% nel periodo gennaio-settembre. E ora vediamo come stanno andando oggi i mercati finanziari con Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah. Buongiorno, oggi il mercato torna ad essere piuttosto preoccupato su vari fattori, naturalmente all'ordine del giorno ancora le questioni greca e spagnola, ma poi anche i timori per un arrivo di contrazione consistente per la Germania e per la Francia, perché anche la Banca Centrale Francese ha ridimensionato le attese di crescita dell'economia transalpina. E poi ancora occhi puntati oltre l'oceano con Barack Obama, che oggi dovrebbe esprimere delle riflessioni piuttosto importanti sulle misure che intende prendere per rilanciare la ripresa dell'economia e soprattutto per trovare un'intesa con il Congresso per scongiurare il fiscal cliff, cioè quell'insieme di tagli automatici alla spesa e di aumenti alle imposte che scatterà a gennaio e che avrebbe un impatto fortemente recessivo per gli Stati Uniti d'America. La borsa europea è negativa, Francoforte perde un punto, la Spagna oltre un punto, Parigi -0,33%, Londra -0,41% e Milano -0,70%. 1,74%. L'euro sul dollaro a 1,27,18, spread fra BTP e Bund sopra i 370 punti base. Segnaliamo a Piazza Affari, a parte le trimestrali in corso di diffusione, quella di Generali, di Prismian, ma soprattutto quella di Telecom Italia, che porta il titolo a crescere del 3,68%, anche se in questo momento la regina della seduta è Finmeccanica più 5, perché il mercato aspetta notizie sulle dossier dismissioni e potrebbero esserci degli annunci imminenti. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Ieri la minaccia delle province: se si va avanti coi tagli spegneremo per una giornata i riscaldamenti nelle scuole. Così a 24 mattino il presidente dell'Unione delle Province, Antonio Saitta. Abbiamo voluto sollevare un problema relativamente a quello che capita. Cioè, normalmente quando si parla di tagli, ormai il linguaggio anche nel rapporto tra le forze politiche è un linguaggio, come dire, un po' atipico. In realtà quando si parla di un problema anche di servizi, oltre evidentemente a un problema di razionalizzazione, siamo arrivati, come dire, ormai al punto, per una serie di difficoltà, di dover tagliare quelli che Bondi chiama consumi intermedi, no? Che sono le utenze, che per verità il governo ha fatto anche con una grande semplificazione, considerando tutte le amministrazioni alla stessa maniera, indipendentemente se sono virtuose, come si dice normalmente, oppure no. E quindi abbiamo chiesto al governo: guardate che la dimensione del taglio che avete visto per novembre e dicembre è una dimensione insopportabile, perché in termini assoluti è uguale a quella dei comuni, ma in termini relativi, essendo la spesa dei comuni 7-8 volte di più di quella delle province, vuol dire che noi incide intorno al 30%, ma soltanto per novembre e dicembre. È in corso a Pechino il congresso del Partito Comunista Cinese, in diretta quindi proprio da Pechino, Luca Vinciguerra. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Buonasera, il caso di dire. Sì, per me buonasera, sì. E qui appunto, mentre la nomenclatura cinese è impegnata nella più delicata transizione di potere degli ultimi 10 anni, il Tibet si conferma la grande spina nel fianco di Pechino. Le immolazioni dei tibetani che si danno fuoco per protestare contro di noi sono istigate dal Dalai Lama e dalla sua cricca, ha detto oggi un alto funzionario del governo della regione autonoma del Tibet, durante una conferenza stampa svoltasi proprio a margine del 18° congresso del Partito Comunista Cinese. E non è tutto. Secondo fonti di esuli tibetani, nelle ultime 48 ore 5 o 6 persone si sarebbero immolate per la causa indipendentista della grande provincia cinese a maggioranza buddista, facendo così salire a 56 il numero dei suicidi politici dall'inizio dell'anno. Secondo le stesse fonti, tra l'altro, oggi migliaia di persone avrebbero inscenato manifestazioni di protesta a Tongren, una città del sud-ovest della Cina. Queste, diciamo, sono un po' le ultime notizie che vengono dal congresso, che, lo ricordiamo, nei prossimi giorni dovrà dare il via a questa grande transizione di potere decennale ai vertici della Cina. Grazie a Luca Vinciguerra per questa corrispondenza dalla Cina. Concerti e dibattiti, cambiamo argomento, nei luoghi appartenuti ai boss e ora restituiti alla società civile. Da oggi a domenica a Milano il primo festival dei beni confiscati alle mafie, voluto dal Comune. E proprio da casa di Viale Jenner 31 si terrà la diretta di Italia contro Luce oggi alle 13.30. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno, io mi trovo già qui dove il videocitofono è staccato dagli altri pulsanti, dove una porta finta e un complesso sistema di telecamere seguivano chiunque entrasse in questa casa. Affari di droga e di morte si sono decisi in questa casa di Milano, dove mi trovo in questo istante, che un tempo era l'abitazione del re del narcotraffico, Uma Assune, Giuseppe Ferraro, e che ora ospita invece 5 anziani in attesa di alloggio. Un tempo questo appartamento di Viale Jenner era un bunker, oggi le sue porte sono spalancati al pubblico per una delle tappe, come ricordavi, del primo festival dei beni confiscati. Letture e concerti nei luoghi dove le cosche tramavano omicidi. 90 appuntamenti da oggi a domenica nella regione che, con 863 beni confiscati, segue subito dopo i feudi nativi delle principali mafie. La regione, la Lombardia, dove i gruppi di 'ndrangheta hanno più autonomia della casa madre, come ha ricordato ieri il PM Alessandra Dolci nella requisitoria del processo infinito. E la Lombardia, insieme a chiedere il risarcimento danni proprio per questa indagine, riporta ora alla società civile di impossessarsi di nuovo di quei luoghi che erano stati tolti dalle mafie. Appuntamento dunque a tra poco all'interno di Italia in Controluce. Parliamo adesso del processo Ruby. Sono venuto oggi in tribunale da cronista per vedere cosa succede, ha spiegato così Emilio Fede nell'aula del processo sul caso Ruby, in cui è imputato insieme a Nicole Minetti e Lele Mora. Cosa si aspetta da questa cosa? La sentenza. Emilio Fede fa la sua apparizione al processo Ruby. È venuto per cortesia e anche curiosità. Dice che non rilascerà dichiarazioni spontanee e che, appunto, da questo processo si aspetta solo una sentenza. Un processo che oggi in aula vede la presenza di alcune cosiddette olgettine. Come mi aiutava prima, Berlusconi mi aiuta anche adesso, con 2.500 euro al mese, racconta Elisa Toti, una tra quelle che ad Arcore andava a cena. Ma, chiede il PM, ha fatto sesso a pagamento con il cavaliere? Mai, non sono una prostituta. Chiamata a rispondere anche Aris Espinosa. Poca memoria però per lei. Erano 6.500 euro che ha preso da Berlusconi, le domanda il PM San Germano. Non me lo ricordo, risponde. La reticenza di un testimone è equiparata alla falsità, le ricorda la presidente del collegio. Una osservazione che incide sui ricordi della giovane, che quindi rettifica. Potrei aver millantato di aver ricevuto quei soldi per giustificare il fatto che non uscivo con il mio fidanzato. Ma sui rapporti intimi la versione è la stessa. Mai fatto sesso a pagamento con Berlusconi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Walter La Vitola ha patteggiato davanti al GIP di Napoli Francesco Cananzi una condanna a 3 anni e 8 mesi per la vicenda dei fondi dell'editoria a Lavanti. L'accusa nei confronti dell'ex direttore avanzata dai PM Woodcock e Piscitelli era di truffa e bancarotta. Dopo mesi di campagna elettorale, ieri Barack Obama è tornato alla Casa Bianca a occuparsi dei problemi che affliggono gli Stati Uniti. Il più urgente è quello del fiscal cliff, il baratro fiscale, come lo ha definito Ben Bernanke. Poi c'è la riforma della legge sull'immigrazione e il rinnovo di parte della squadra. Quello che state ascoltando però è un discorso di ringraziamento di Obama allo staff elettorale a Chicago. Il video sta facendo il giro del mondo perché il presidente si è commosso fino alle lacrime. Siete migliori di come ero io alla vostra età. Sono orgoglioso di voi, ha detto Obama. Quasi 8.000 siriani in fuga dai combattimenti hanno passato il confine con la Turchia per rifugiarsi nel paese vicino nelle ultime 24 ore, portando il numero totale dei profughi in Turchia a circa 120.000, secondo fonti del Ministero degli Esteri di Ankara. Uno scandalo di mala sanità di grandi dimensioni, quello scoperto dai carabinieri del NAS di Parma, che hanno arrestato 9 cardiologi che hanno svolto o svolgono la propria attività presso il Policlinico di Modena. Le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta Camici Sporchi sono 64 e 12 le aziende di cui 6 straniere che producono attrezzature sanitarie e per le quali è stato disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. La Ferrero attacca quella che in Francia è già stata battezzata la tassa sulla Nutella e che potrebbe, se venisse approvata, aumentare del 300% le tasse sull'olio di palma. Un emendamento infondato e ingiusto, così dice l'azienda, secondo la quale l'olio di palma, per la sua versatilità d'uso e universalità di consumo datata da più di 10.000 anni, viene ritenuto uno degli alimenti base della storia umana. L'azienda ricorda poi che quello utilizzato è perfettamente compatibile con il rispetto della ambiente. Alla base della proposta francese invece ci sarebbero anche effetti nocivi sull'ambiente, in particolare per la deforestazione. Ma cos'ha in particolare l'olio di palma? Il nutrizionista Filippo Ongaro, che assieme a Nicoletta Carbone cura la rubrica Mangia con me su Radio 24. Stiamo parlando di un olio che, per dirlo in termini semplici, assomiglia un pochino di più al burro. Cioè è un olio che ha una quantità, una percentuale di grassi saturi piuttosto elevata, al di sopra del 50%, e quindi si avvicina di più a quella tipologia di grassi che sappiamo dobbiamo limitare nella nostra alimentazione. Detto questo, non è però un olio su cui si possa dire qualcosa di particolare in termini di effetti nocivi specifici. Ci sono degli oli che scientificamente sappiamo sono più pericolosi, mi viene in mente gli oli idrogenati, per esempio, che sono ottenuti con un processo chimico che ne altera le proprietà. Dunque credo che per quello che riguarda l'olio di palma il problema non sia tanto l'olio in sé, ma, come spesso accade quando si parla di nutrizione, occorre valutare il bilancio complessivo dell'alimentazione di una persona. Se quindi c'è un eccesso di grassi saturi, certamente nell'alimentazione della persona, certamente l'olio di palma aggiunge un altro grasso saturo all'alimentazione. Gli oli da prediligere, insomma, li conosciamo tutti, sono l'olio d'oliva, in particolare i grassi polinsaturi dell'olio di pesce contenuti nel pesce azzurro. L'olio di palma non è certo un grasso da prediligere, ma mi pare un po' eccessiva un'azione di questo tipo, soprattutto da parte di una nazione come la Francia, che ha un introito di grassi saturi che proviene da alimenti utilizzati molto più frequentemente rispetto all'olio di palma, per esempio i formaggi. Dunque non mi pare che sia un'azione particolarmente incisiva, ecco. In chiusura il calcio con Carlo Genta. Buongiorno a tutti, è stato un bel giovedì di Coppa, di Europa League, perché l'Inter si è confermata in un grande momento stampando la decima vittoria consecutiva tra campionato e Coppa, vincendo su un campo non facile come quello di Belgrado 3-1 e alla fine qualificandosi con due turni d'anticipo alla fase successiva. Ma è stata una serata emozionante anche a Napoli, dove il Napoli era sotto con il Dnieper e poi ci ha pensato Cavani. 4 gol per il Matador e Napoli che resta in corsa. Merita un applauso la Lazio, che alla vigilia del derby, quindi con mille pensieri per la testa, batte 3-0 in casa al Panathinaikos. Unico scivolone, ma grave, quello dell'Udinese, che perde in casa con gli svizzeri dello Young Boys, e per l'Udinese la qualificazione sarà durissima. Peccato, perché è stata vanificata in questo modo una vittoria storica come quella che l'Udinese aveva ottenuto a Liverpool. Di calcio e di sport torneremo a parlare naturalmente alle 14, tutti convocati, a dopo. Grazie a Carlo Genta, che risentiremo quindi alle 14. È tutto per questo GR curato da Daniele Biacchessi, in regia Paolo Corleoni. Prossimo radiogiornale, appunto, alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buona giornata da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. Da gennaio la questione sarà completamente e positivamente risolvibile, lo ha promesso il ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi in risposta alle polemiche nate per il mancato arrivo ad Umbria Jazz dei fondi ministeriali. Il ministro ha anche precisato che l'affermazione che gli è stata attribuita, cioè che il jazz non appartiene alla cultura italiana, è assolutamente infondata. Intanto si terrà però anche Umbria Jazz Winter, edizione numero 20, si svolgerà ad Orvieto dal 28 dicembre al 1 gennaio. Svelato ieri il cartellone completo dal direttore artistico Carlo Pagnò, che ha fatto cenno anche alle polemiche. Si decidano, malgrado tutto questo polverone che si è alzato, era ora. A questo punto forse questo polverone servirà. Io la vedo che se non c'hai santi in paradiso, la mafia non è soltanto in Sicilia. Sarà una battuta forte, mi devono spiegare perché c'è gente che prende i soldi e Umbria Jazz no. Umbria Jazz Winter si farà comunque, grazie a quali soldi, a quali fondi? C'è la Fondazione Cassa di Risparmio che di Orvieto, che ha dato una grossa mano, e il sindaco si è dato da fare per trovare altri fondi, completamente non sono stati trovati. Devo dire però che il programma che era pronto da 3 mesi non è stato toccato, non c'è stata nessuna cancellazione. Io penso che sia un festival divertente, dedicato alle voci, ci sono delle novità come Gregory Porter, la prima volta in Italia, è il cantante del momento, abbiamo dei ritorni come Kurt Elling di Alexander, Jacques Morellenbaum con Paola Morellenbaum. Il festival è divertente. Questa sera Radio 24 ricorderà con un grande speciale Giorgio Gaber. Dalle 21 alle 23, insieme alla figlia Dalia Gaberschik e agli artisti che hanno partecipato al grande tributo Io ci sono, triplo CD di cui ascolteremo in anteprima i più belli estratti. Potrete intervenire per raccontare i vostri ricordi gaberiani con un SMS al 349-238-6666. E ancora Franco Battiato, neo assessore alla cultura della Regione Sicilia, a detenere lo scettro degli album più venduti con il suo ultimo lavoro Apriti Sesamo. Ma alle spalle del cantautore catanese arriva una new entry, Sunrise, di Giovanni Allevi, che si piazza subito al secondo posto. Terzi i Muse. Due gli appuntamenti con Ennio Morricone e le sue musiche dal vivo, questa sera al Palolimpico di Torino e domani al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Dopo il lieve malore di sabato scorso in concerto a Firenze, il maestro è tornato in pedana e prosegue così il suo Ten Tour 2002-2012 per 10 anni di attività dal vivo. La 19ª edizione di Artissima è in programma Lingotto di Torino da oggi a domenica. La neodirettrice è Sara Kosulic-Canarutto. Artissima è una fiera molto importante, riconosciuta internazionalmente, forse la fiera più internazionale appunto in Italia, è una fiera compatta ma molto selettiva, c'è grande qualità per quanto riguarda la presenza degli espositori. Quest'anno manteniamo una presenza importante, 170 gallerie, Artissima è una fiera che proprio permette alle gallerie di rischiare, vogliamo che questa qualità e questa sperimentazione continui ad essere il filo rosso della nostra iniziativa. È tutto pronto all'Auditorium Parco della Musica per il Festival Internazionale del Film di Roma. Il red carpet sarà dedicato agli scenografi che hanno fatto grande Cinecittà. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli, un saluto da Adriana Fracchia.